co-sceneggiatore e coproduttore di un documentario, un film, di cui hai proprio il master in saccoccia adesso. Ho il master qui nelle mie mani, ancora caldo. E non viaggiano più nelle valigie diplomatiche come succedeva negli anni 60. Ma quasi, perché il borsello che c'avevi tu con quell'impermeabilino. La valigia diplomatica è uno strumento a disposizione delle produzioni cinematografiche che servivano, si trafugavano i film anche negli anni 60. Sì, ci sono molte storie anche divertenti, avvincenti, però sì, portare un film fuori dai confini nazionali senza avere un determinato numero di cartacce, che era anche abbastanza difficile avere qualche anno fa, era proprio illegale. E infatti è così, nella 154esima... Voglio rompere gli coglioni Coxoni, per favore. Certo. Coxoni. Gli voglio fare un... Visto che lui fa sempre i quiz, no? Al paura in palcoscenico. Sì. Ho deciso di preparargli un quiz io. Oddio. Aguzza le orecchie. Pensavo la vista. No, invece bisogna Sono pessimo nei quiz. Io non vinco mai niente, neanche alla pesca. E abbassa un attimo la musica di sottofondo e ascolta questo contributo. I was interested in making a story about the Columbine High School massacre because of so much journalism that was trying to explain something about the incident of this high school killing. Mai niente, neanche alla pesca. E abbassa. No, questo quello dopo. Capito. Okay. Hai capito chi è? Ho intuito di cosa si parla, posso provare. Era forse il signor Van Sant che parlava del suo. No, che Van Sant? Bowling a Columbine. No! L'avevi preso giusto! Era Van Sant a Torino. Intervistato da Pasquini, ha uno scoop! No, adesso non esageriamo, io l'ho registrato di lontano, ma perché a Torino c'è questo piccolo cinema, non so se li conosci. Sì, i fratelli De Serio. Che io ero a Torino per sbaglio, amico di un'amica dei fratelli De Serio, per sbaglio. Un po' per cozzo. Mi buttano in macchina sempre per sbaglio e mi portano a vedere una mostra, una delle tante, un film all'aperto che c'era un freddo allucinante, che meraviglia. Però prima che cominci il film dicono: abbiamo una sorpresa per voi. Arriva un taxi ed arriva Gus Van Sant che ci sta. Ho le prove. Fantastico, fantastico, meraviglioso. La cosa che ho sempre invidiato, posso dirlo senza timore di essere contraddetto, del Coxo Spaziale, è che contate le puntate e anche che avete questi meravigliosi effetti sonori. Comunque sì, il piccolo cinema è una realtà bellissima, gestita dai fratelli De Serio. Ho le prove. Che vediamo qui in sovraimpressione. Come vedete da questa diapositiva. Che da domani sarà pubblicata su www.coxospaziale.blogs.com. Esatto. E Stefano Pasquini aveva le prove, oltre che il W. Che meraviglia. E invece qui abbiamo svelato il nostro super mega galattico ospite che ci accompagnerà per tutta la puntata, menzioni incluse. Tutta? E il primo Non me ne vado. Il primo slottino della trasmissione è passato. Che brano metto? Metti quello sì. Di Papa Zeta. Ah, va bene, non volevi che fosse l'ultimo? No. Andare, perché non mi va di fare le cose che non mi va di fare. Lavorare è ovvio che fa male, siamo come bestie di un circo senza una morale. No, non mi voglio alzare dal mio letto, preferisco alienarmi da sto mondo, che sarà bello sì, ma dopo un po' indigesto, è giusto per farmi diventare matto. Preferisco stare a casa tutto il giorno ad ascoltare Punch Show. chic. Dica ricco. A lavorare, non ci voglio andare. A lavorare, non ci voglio andare. A lavorare, non ci voglio andare. A lavorare, non ci voglio andare. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Abbiamo di lavoro. Bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Io divento un samurai, non hanno che smane che guai, sai, io divento un samurai. Causano tutto e tutti e sei problemi, sono cazzi tuoi. Di Gippo dice non si sente lo streaming, bip bip bip bip bip. Allora come fa ad ascoltarci? Non ci ascolta? Mi dice che non si sente. Beh, cioè, allora non sentirai. Digli che ci dispiaciamo, lo diremo al primo possibile al nostro tecnico di rete. E magari gli mando un messaggino proprio dopo, durante le pubblicità. E da domani invece ci ascolta su www.coxospaziale.blogspot.com. Non ce la faccio a scrivere tutte queste cose su Messenger. I giovani italiani oggi sono disposti a prendere qualunque lavoro. Precarietà. Non sono nella condizione di essere schizzinosi. Hai sentito il Papa Zeta? Non siamo. I giovani non sono in condizione di essere com'era? Non lo so. Mi scrive anche Silla Guerrini, ma credo che non abbia nulla a che fare con questa trasmissione. Ma ne perché ti scrivono per sul profilo personale, certo, invece devi educarli, no, a scriverci sul coxo, dai, esatto, tutti gli stanzonisti. Sì, però. Perché se così facessero potrebbero a parte che proviamoci 333 180 94 94 per andare rispondere al quiz. Ma l'ha già risposto? Sì. Però ha vinto il nostro ospite. Ha vinto il nostro ospite, che per tutta la 150esima puntata di Coxo Spaziale è Stefano Migliore. Grande. Buonasera. La amatissima voce del nostro palinsesto. Cosa state facendo? Insomma, questa è una trasmissione estremamente performativa. Esatto. Vorrei salutare Thomas David, che è all'ascolto. Benissimo, grazie, sì. Ciao, ti saluto anch'io. Io posso dire how you doing? How you doing? Beh, se ci ascolta è perché sapeva, l'abbiamo pubblicato sui nostri social, che tu saresti venuto a parlarci di del primo capitolo di una trilogia sul Brasile che si racconterà attraverso la cinematografia. Lepanto, ultimo cangaceiro, esce al cinema. Questa già di per sé è un po' una notizia, perché un documentario prodotto da una casa di produzione indipendente che va al cinema, proprio come i film veri, come i film del signor Van Sant, che abbiamo avuto qui nei nostri spazi poc'anzi, è già di per sé una notizia. Ricordiamo, le date sono 3 giovedì, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre alle ore 19 al Cinema Odeon di Via Mascarella. E tra l'altro è notizia di oggi che diamo in esclusiva qui in questo momento e in anteprima, solo per il Coxo Spaziale. Sarà programmato anche per tutta la settimana dal 20 al 27 ottobre al Cinema Modernissimo di Perugia. Ah, meraviglioso! Sì, siamo molto contenti, perché la distribuzione è un po' il tallone d'Achille di quello che è il cinema indipendente, soprattutto di quello che è il documentario, anche se in realtà sono sempre di più i titoli che si stanno facendo largo nell'offerta modernissimo culturale. Il modernissimo è un bellissimo cinema nel quale non sono mai stato. Spero di poterci andare al più presto. Beh, lo speriamo anche noi. Fra l'altro, Perugia, che è una gran bella città, dico bene? Sì. Ho già sbagliato la città. Meravigliosa. No, è il modernissimo Perugia. Di Perugia. Io sono quella delle gaffe, insomma, e quindi è un po' il mio ruolo. Invece il ruolo di Stefano Migliore in questa occasione è quello di cosceneggiatore e coproduttore. Esatto. Come ti sei trovato? Come nasce? Allora, questo è un film che nasce da un progetto di ricerca che è stato per il regista Enrico Masi un progetto di tesi di dottorato di impatto di grandi eventi sulle popolazioni locali, per cui abbiamo fatto un film nel 2012 che si intitola The Golden Temple, che andò a Venezia e che a distanza di 4 anni, essendo un film comunque che parla di quello che è successo a Londra in occasione della costruzione del Parco Olimpico delle Olimpiadi del 2012, raccontato attraverso gli occhi di Mike Wells, fotoreporter inglese che è diventato un po' il nostro Jack Nicholson, raccontando quindi attraverso i suoi occhi, attraverso il suo racconto, Mike ha perso la casa per lasciare spazio al villaggio olimpico e per lasciare spazio al centro commerciale più grande d'Europa, Westfield. Quindi parte da qui questo progetto, e quindi dal 2012 arriviamo al 2016. Nel 2016 The Golden Temple è presentato a Stoccolma all'interno di una rassegna specifica di studi di urbanistica. Ci siamo approcciati dopo l'avventura londinese con il caso di studio brasiliano che nell'arco degli ultimi 2 anni ha ospitato mondiali di calcio e olimpiadi. Lepanto è il primo capitolo di questa trilogia e vede ancora come protagonista Mike Wells. Ultimo cangaceiro. Io ho la traduzione. L'ultimo cangaceiro. Sentiamo. Lepanto, l'ultimo bandito. Esatto. Hai capito. Ah. Ho svelato tutto, cioè, ho svelato il finale. Io spero che comunque gli ascoltatori sia rimasto un minimo ancora di curiosità. No, vabbè, ci sono tanti temi. Ma ci le sono curiosità ce l'ho anch'io, se permetti. Quindi, stiamo parlando del primo capitolo di una trilogia che riprende le fila di un esperimento che era stato fatto a Londra, come ci ha raccontato. Quindi anche i prossimi film andranno a investigare questi aspetti di urbanistica che vanno a insistere sulla vita delle persone, oppure in che senso continua la trilogia? La trilogia è una trilogia brasiliana che è già compiuta, si compone di Lepanto, ultimo cangaceiro, si compone di un cortometraggio che abbiamo presentato al Festival di Pesaro, si chiama Terras Semales, che parla della situazione di quelli che sono i nativi brasiliani che avevano fondato la loro libera università indigena in uno stabile coloniale nelle immediate, praticamente di fronte allo stadio Maracanã. E ovviamente sono stati i primi a essere cacciati con la violenza a un anno dai mondiali di calcio. Si parla quindi di resistenze abitative, si parla di un contesto urbano e sociale che è molto diverso da quello di Londra, ma che in qualche maniera replica delle dinamiche economiche, sociali, urbane, globali. Non mi vengono in mente altri paroloni, ma ce ne potrebbero essere molti altri. Gentrificazione, ecco, un altro. Ce l'avevo proprio in testa che non sapevo se era il caso di dirlo oppure no. Sì, sì, a qualcuno piace dirlo, a me non tanto. Ma a me piace più caso, dire... scusami, da una situazione di contesto urbano, suburbano, insomma un quartiere, si è spostato tutto per fare un grande centro commerciale in un caso, stadio e centri sportivi in un altro. Si può parlare lo stesso di gentrificazione, anche se in realtà non è che si è sostituita una massa di abitanti? Gentrificazione. O gentrification. Gentrification, if you wish. Thank you. È un processo per cui, per esempio, nel caso di Rio de Janeiro, si è tradotto assolutamente nello nella rimozione di una comunità, di una serie di persone. Diciamo che forse più l'Olimpiade rispetto ai mondiali di calcio si è manifestato qui come, con tutta probabilità io credo, un acceleratore di questi processi. Mm-hmm. Per cui queste cose magari sarebbero successe ugualmente, ma forse in maniera diversa e con delle progettualità magari più condivise e meno scioccanti, ed anche un'evoluzione sociale, di tessuto sociale conseguente. Esatto, perché l'altro caso di studio che sta di fianco all'università indigena è Villa Autodromo, che era una comunità di pescatori ai quali si aggiunsero dei sindacalisti che scappavano dalla dittatura militare negli anni 60, e inizialmente questa comunità avrebbe dovuto far parte del villaggio olimpico quando Rio de Janeiro vinse l'appalto per ospitare le Olimpiadi di quest'anno. Il progetto era molto chiaro, però è successo che durante le fasi di preparazione, durante le fasi di lavoro, è emerso che casualmente che doveva passare una strada proprio sopra così, questa è comunità emerso. Che aveva vinto un premio di $100,000 della Deutsche Bank come miglior progetto di riqualificazione urbana, per cui non era propriamente una favela di quelle brutte e cattive dove se ci metti un piede ti sparano e muori. Era un progetto, un laboratorio urbano, era qualcosa di partecipato e di pacifico. E Lepanto, diciamo che racconta un po' queste storie, ma racconta anche una storia d'amore. Mi piace la storia d'amore. Un documentario con una storia d'amore, che bello. Sì, succede anche questo. Però non posso spingermi oltre nell'esaudire la vostra curiosità. Beh, in realtà si tratta di aspettare poco. Ripetiamo un attimo la prima data della prima proiezione bolognese. Giovedì 20 ottobre, ore 19, Cinema Odeon. Ci saranno anche due repliche, 27 ottobre e 3 novembre, sempre alle 19, sempre al Odeon. E comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link, tutte le date, tutto di tutto, e anche la foto in impermeabile con Master al seguito di Stefano Migliore e Gus Van Sant al mio fianco. Sì, però. Sì, in formato digitale. Pasqua, stiamo arrivando ad uno che è un momento che è cardinale per la nostra trasmissione. Speriamo che funzioni. No, ma a parte quello. Ce l'hai? Gentrificazione. A parte gentrificazione, ce l'hai? Ma chi è questa persona che parla? Chi è? È partito con un delay spaventoso. Credo sia la signorina Google. Google Translate. La signorina Google Translate oggi veramente va di un lento spaventoso. No, perché se tu mandi quello, io poi devo mandare la pubblicità e mi devi dire quando sto per finire, capito? Ah, okay. E che cosa? Cioè, cominciamo con una nuova non c'è tempo per quella. Andiamo con quella dopo. Adesso abbiamo 2 minuti, dammi 2 minuti di Lolli. Ti do i 2 minuti di Lolli. 2 minuti di Lolli, numero 28. Ma l'altro durava 1 minuto e mezzo. Io abbasso la musica di sottofondo e anche il microfono. Abbassa la musica di sottofondo. Lenta. Che io tento. No, magari il mio microfono lascialo un attimo acceso perché devo. Anche un il mio, ti sarò vicino. Eccolo qua, oddio, ho sbagliato, eccolo qua. E quando dice così, che è pronto, Stefano. Eccolo qua, forse. Sì, no, non so, forse non gli piacciono gli MP3, per ora non sentiamo abbastanza niente, più di dirti play non saprei cosa dire, forse non ce li abbiamo. Ritenta, sarai più fortunato. Possiamo posso rimettere la musica di sottofondo? La musica di sottofondo, quindi abbiamo... Direi che no. Il notaio conferma che io clicco play. Guarda, io gli avrei già dato una testata. Non so come hai fatto. Cioè, hai uno zen. Ma guarda, ti dirò che la mia chiavetta con tutti i contenuti preparati non l'ha voluta aprire. Ecco. Quindi ho dovuto cercare tutto online nei tre minuti prima della diretta. E quindi a questo punto, che sono come al solito tre ore diverse in ciascun orologio che abbiamo qui davanti, e noi partiamo con le super mega galattiche pubblicità delle 9:30. No. Grande inaugurazione dell'impianto di Bruno di Birra Lux. Si può bere! Coxo spaziale, coxo spaziale. coxospaziale. Ed eccoci ritornati nella seconda coxissima parte della 154esima puntata di Coxospaziale, che ha come super mega galattico ospite in trasmissione Stefano Migliore in veste di Coco Bruttore. È perché è una trasmissione divertente, no? Allora, con in veste di coproduttore, non co-conduttore purtroppo, e coautore di Lepanto, Ultimo Cangaseiro, Ultimo Ladro, Ultimo Bandito. Vedi, io sono quella delle gaffe. E per non smentirci, ti sottoporrò la prima menzione, non prima del jingle, nella quale ci sono disseminati degli errori di ortografia e punteggiatura. Buona fortuna, Stefano, vedi di essere migliore anche questa volta. L'angolo della menzione. Dal 28 al 31 ottobre Festival Crisalide a Forlì. Perché passi un po' di caos libero e ventoso è il titolo della 23esima edizione del Festival Crisalide. L'evento, a cura di Mask Teatro e dedicato ad arti performative, torna dal 28 al 31 ottobre a Forlì. Lorenzo Bazzocchi, fondatore e direttore del Festival e della compagnia Mask Teatro, ci regala qualche anticipazione sull'edizione 2016, ricca di prime nazionali con proposte di teatro, danza, filosofia, incontri, mostre e workshop. Bravissimo. Allora, perché passi un po' di caos libero e ventoso, questa bellissima frase evocativa che insomma ci parla anche della ricerca teatrale, che è qualcosa che difficilmente si riesce a stare dentro delle parole contenute e circoscritte. È complesso, e sempre che non abbia riattaccato è con noi Lorenzo. Ci sei ancora? Benvenuto a Coxo Spaziale, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, abbiamo su questo festival ci sarebbe tantissimo da dire, e anche più avanti magari ci rincontreremo per andare anche a menzionare altri aspetti che non avremo tempo di trattare in questa occasione. Però fra le tante cose vorrei chiederti qualcosa riguardo gli artisti internazionali, perché effettivamente è un festival che abbastanza intimo, se vogliamo, che però ha una grande risonanza sia a livello nazionale che internazionale. Sì, diciamo che Crisalide si presenta sulla scena del teatro e della danza tentando sempre di ospitare delle figure che in qualche modo possano segnare delle tracce, e negli ultimi anni soprattutto abbiamo visto che un teatro e una danza europee in qualche modo stanno viaggiando su dei crinali che io ritengo estremamente interessanti. Il festival, come è stato detto, parte venerdì 28 e termina lunedì 31 ottobre. Sono quattro giornate molto dense e il tema titolo, diciamo, non deve trarre in inganno, nel senso che viene sempre concepito anche in tempi che non erano certamente sospetti. Voglio dire, Crisalide probabilmente è stato il primo festival italiano, e tra l'altro siamo alla 23esima edizione, a darsi una sorta di linea guida nel suo titolo, nel suo tema, perché passi un po' di caos libero e ventoso rapidissimamente proviene direttamente da una immagine di un poeta, Lorenz, che nel suo Caos in Poetry in qualche modo ci dice che se l'uomo si protegge dal caos con una sorta di ombrello, è probabilmente l'artista, senza essere pretenziosi, che riesce a fenderlo per far passare appunto un po' di caos. Poi arrivano gli epigoni, i comunicatori, che probabilmente imitano quella prima traccia e la chiudono, insomma, poi arriveranno degli altri. Ecco, diciamo che questa sensazione generale ci serve per circoscrivere delle strade sulla scena, delle vie. In particolare vorrei nominare questa coreografa, danzatrice svizzera, Yasmine Hugonet, che apre venerdì 28 con un incontro con una critica, una studiosa, Piersandra Di Matteo. Piersandra Di Matteo lavora a Bologna, è una figura di spicco della teoria sulla performance italiana, collabora con Castellucci della Societas, ne è la drammaturga. E abbiamo avuto la fortuna di averla anche già qui a raccontarci cose che succedevano a Bologna. Quindi cogliamo l'occasione per salutarla caramente. E questo incontro con Yasmin Ugoné in qualche modo è la punta di una relazione che Piersandra Di Matteo sta portando avanti da ormai 2 anni. Yasmin è una figura emblematica, la sua danza è una danza, come dice anche il titolo, figure, posture, facoltà del langage, è una sorta di viaggio attraverso le posture, ha questa sua incredibile capacità di abbinare alla coreografia la facoltà di ventriloqua, quindi la si vede in scena in un modo straordinario, dove si sente questa voce provenire da non si sa dove mentre lei prosegue le sue attività, chiamiamole così, coreografiche. E questo è il primo incontro con una figura, appunto dicevo, Yasmin Ugoné svizzera. Il giorno seguente, sabato 29, abbiamo Miriam Gurfink, altra figura della coreografia europea, francese in questo caso, presenterà Almasti, che è un solo di danza, comunque interpretato non dalla stessa Miriam ma da Deborah Leary, una danzatrice molto, molto capace, che la sta accompagnando negli ultimi anni. Miriam Gurfinger, tra l'altro, era stata ospite già 3 anni or sono del festival. È una danza che mira a costruire un rapporto stretto con lo spazio, anche se lo spazio effettivamente è estremamente ridotto, cioè le movimentazioni, anche qui le posture, sono ottenute in microsecondi e in spazi estremamente, estremamente limitati, dove ogni centimetro è vissuto anche dallo spettatore in una sorta di non parlo di angoscia, ma senz'altro di quasi di vicinanza estrema con l'interprete, nel cercare di condurla o di condurre se stessi verso il viaggio che Deborah Leary insomma produrrà. Questo è un modo, cioè non è che si voglia scegliere figure che portano avanti necessariamente discorsi particolari, però certamente queste tracce, appunto, come dicevo, di anche di nuove ventate, cioè di nuove possibilità che forse possono trovare anche un pubblico critico che potrebbe anche non godere, diciamo, di queste avventure. Io sento che è importante anche per altri artisti, quindi per non soffermarmi troppo sul 29, su sabato, che comunque devo dire che Crisalide è negli ultimi anni caratterizzato da un rapporto stretto con la filosofia. Infatti vedo anche, sì, un incontro con Paolo Godani su Deleuze. Sì, diciamo, Paolo Godani è un giovane filosofo, giovane nel senso che comunque già da 15-20 anni, ormai 43-44 anni, che lavora su, non solo su Deleuze naturalmente, però è un deleuziano doc, diciamo che quando Deleuze aveva perso forse la sua, non dico tanta importanza, però un nouveau filosofo francese in qualche modo vedevano in Deleuze ancora il retaggio di un 68 con l'antedipo di Deleuze e Guattari, in qualche modo si chiudeva una stagione che per me, diciamo, felice, per altri evidentemente non altrettanto. Paolo Godani è un sostenitore del valore di Deleuze e in particolare affronterà questa, lui parla di arte di rovesciare il platonismo. Deleuze non è un antiplatonico, però rivede il platonismo in una versione estremamente non contemporanea, ma neanche adattandola, ma una visione dal presente, e quindi credo che sarà sicuramente interessante. D'altra parte Crisade pone il filosofo di fronte agli spettatori e a noi interessa che si possa cogliere come ragione una figura sulle cose del mondo nel suo modo, quindi non sono lezioni frontali, sono una sorta di incontri dove si tenta di un dialogo. E forse un simbolo anche di questo tipo di rapporto dialogico che offrite da tutte, fortunatamente da tutti questi anni e continuate ad offrire, anche il fatto che la maggior parte degli eventi avrà sede nel teatro Félix Gattari, appunto. E come mettere dentro il filosofo, dentro la filosofia, tutta l'arte, quindi una cornice bellissima. Caro Lorenzo, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Purtroppo il nostro tempo è giunto al termine. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i riferimenti per andare a vedere questo distillato di preziosità che guardano al contemporaneo in tutte le direzioni. E noi spero ci potremo sentire anche il prossimo venerdì per qualche altra anticipazione, magari anche in un modo più ampio. Grazie tantissimo. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Mi mancava il fatto che Deleuze a un certo punto avesse preso una brutta piega. Ah beh, per qualcuno sì, eh. Ma sai, Gilles ha avuto un'infanzia difficile. Allora, continuate un attimino voi. Tu sei delusiano, Stefano? Sì, delusiano. Tre delusien o un petit po'? Un petit po'. Però, Fedra, voulez-vous alter mon microphone alle CD1? Les Chanel, non le microphone. Oui, les Chanel CD1. Io l'ho alzato. L'angolo della menzione. Stava già per morire. Molto bene, siamo a domenica 16, chi lo legge? Vai tu. Vado io, 16:30, T-Dance, vieni a ballare con noi. Yeah. At T-Pedonale. Ah, ma dai, istruzioni per l'uso. Allora, la T-Pedonale sarebbe a Via Ugo Bassi, via Rizzoli. Che nei weekend è pedonale. Che di sabato e domenica è appunto pedonale. Istruzioni per l'uso. 1. Indossa qualcosa di rosso e di nero. 2. Cercaci in via Rizzoli e in via Ugo Bassi. Non si capisce perché via Bassi diventa sempre via Ugo Bassi. 3. Balla con noi al ritmo di Corretto Samba. Sambaradan che aspetta. Forse perché c'è anche una via Laura Bassi Veratti? Sì, può darsi. Potrebbe darsi. Poi suona così bene. Via Ugo Bassi. Colpa, infatti via Ugo Bassi è bellissimo. E vi butto lì che prossimamente a danzare in giro per la T in quei giorni. Devo dirlo a Fuga Perat che non, poverino, non sta ascoltando. Ci saranno diverse persone, possibilità, ma questo ve lo diciamo nelle prossime menzioni. Aspettiamo ancora un po'. Allora vado io? Vadi che è la menzione tua? Venerdì 21, ore 21, il cuore trema mentre ancora. Mentre c'è Coxo Spaziale. Esatto. Cioè, anziché ascoltare noi, andate... Perché poi noi ci ascoltate da www.coxospaziale.blogspot.com. Esatto. La puntata della settimana prossima sarà molto, molto, molto carina. Ah sì? Avremo un rapper. Ma ci sono io? Perché no? Ah sì, allora sì. No, scusami, ci sei, anche con la famiglia, credo, a parte mia moglie. Che sarà Il cuore trema ancora, dico bene? Concerto a favore delle popolazioni dell'Italia centrale, coro 100 passi, coro multietnico, consonanze, coro Vignolincanto. Vignon in canto. Sì. Io veramente dislessica, vele gaffe, una cosa poi incrociata. Teatro Comunale Laura Betti, Piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno. Ingresso offerta libera per il comune di Montegallo. In provincia di Ascoli Piceno. In Ascoli? Sai cosa vuol dire questo in islandico? No, non proprio. È facile. L'angolo della menzione. Era abbastanza facile. Detto questo, ho trovato la soluzione per ascoltare i due minuti di Lolli. Ma mi devi leggere l'ultima 28. Menzione, che io intanto metto il prossimo brano. Hai ragione, brano. La leggo io, la leggo sì. Io, lo legge uno Stefano Migliore. Fate pari o dispari. Facciamo a metà, guarda, io leggo l'inizio, tu leggi la fine. Ci sono degli errori, attenti. È online l'application form per partecipare all'edizione 2017 di Setup Contemporary Art Fair. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della fiera, dove è possibile candidarsi sino al 30 novembre 2016. Giunto alla quinta edizione ed accreditato come fiera internazionale, Setup dedica questo prossimo incontro al tema dell'equilibrio, erede simbolico del tema dell'orientamento trattato nell'edizione passata. Sacha, come sto smanettando col l'angolo mouse adesso della menzione. È proprio una cosa che non avevo mai fatto prima. Però ho trovato questa. Ha malato di Alzheimer, si è malato. E adesso la metto su. No, ma perché siccome la metto su? Dura due minuti. Chi? I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of course a ness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said I give me compliments. Give me compliments. I said I give me compliments. Maybe my compliments is under here. No, no compliments here either. Taking out the trash. Nel video li stava cercando sotto lo zerbino i complimenti. Trafficking rules. No compliments. Got to work on time. No compliments. And I stressed myself today. No freaking compliments. Every day I do chores like a donkey. There is the applause like the circus monkeys get. It's not fair, I'm doing my best. Look at that child being rewarded with a breast. Give me compliments, I said I give me compliments. Bitte schnell. Give me compliments, I said I give me compliments. Bitte schnell. Not giving away compliments, are we? Jawohl, typical. Where is my great job? Where is my good work? E con questi complimenti, ricerca di complimenti alla fine. Beh, ringraziamo il gruppo Collectivet, che è un canale YouTube che mi sa che è già morto, perché ora che lo scopro io è già morto tutto. Però ci sono tante chicchettine che ascolteremo qui sul Coxo, pensando ai bei tempi andati. Ritorniamo qui alla fine della 154. Abbiamo ancora 7 minuti e dobbiamo chiedere un sacco di cose al nostro ospite. Sì, pure. Tu cosa vuoi? Non gli devi chiedere niente tu. Io ho fogli. Io volevo far partire i due minuti di Lolli, che però tu non mi fai fare. No, li mettiamo alla fine. E Zino? Io sono curioso dei due minuti di Lolli. Va bene, allora, se tu sei curioso, vuol dire due minuti in meno. Che cos'è? Però ce l'hai, è andato? Sì, è andato. Alza il volume. Buon pomeriggio, amico. Mi chiamo Daria. Io sono 28 anni. Sono nativa di Roma. Sono molto impegnativa, pensosa, buona e provata. Ma io sono il muffettino e cocciuta. Io non sono una. Camminare e andare in bicicletta, rilassarsi nella natura, schittarrare, voglio vivere una vita lunga e felice con la mia amore. Cerco un uomo che reda a te con il senso di sicurezza. È un uomo orientato alla stagione, che non fuma e che capisce i difficili di ambientarsi in un altro paese. Per me è molto importante la fiducia e la stima corrisposta nel rapporto con la mia amore. Mi sta davvero molto lì per incontrare la mia amore. I migliori auguri. Oh, tre. Già finito? Ecco, allora erano questi. Come ti sono sembrati? I due minuti di Lolli, allora io seguo il consiglio del brano che l'ho preceduto, dico complimenti. Complimenti, veramente. No, guarda, due minuti in cui mi sono estraniato. È stato due minuti estranianti. Un due minuti di Lolli un po' strano. Ma chi è Lolli? Se è lecito. Riccardo Lolli, il famosissimo cantautore lagarese. Veramente? Sì. Proprio lui. È proprio sì. Lui. Tipo un Claudio Lolli. No, il nostro è Riccardo. È un suo lontano parente, molto meno importante. Ma molto irrilevante per la storia del coxo e dei coxonauti. Comunque, ritornando qui, abbiamo sempre meno gli stessi pochi minuti di prima, con due minuti in meno. E siccome parte un'altra rubrica stasera, perché non possiamo farla partire la settimana prossima, possiamo farla partire la settimana prossima? Stasera? No, non possiamo. Non possiamo. Allora, un altro minuto in meno. Dobbiamo chiederti tutto, Stefano. Sono d'accordo. C'è qualcosa di rilevante che ritieni di sia interessante dire adesso, oppure posso partire io con com'è sceneggiare un documentario, come ti sei mosso rispetto a quello che hai trovato, quello che era il gol, insomma come funzionate l'autorialità in questo testo? È stato un lavoro che ho condiviso con il regista, con Enrico, con cui condivido questa esperienza di cooperativa cinematografica che è Caucaso, ma con cui è un lavoro che è difficile, molto difficile da spiegare, da raccontare, perché è qualcosa che è costantemente in divenire. È un po' poi noi siamo anche musicisti e siamo anche gli autori della colonna sonora di questo film, e ci piace molto fare quei discorsi che faceva Stratos rispetto all'arte vita. Per cui è un qualcosa di molto coinvolgente, di molto pericoloso anche, perché confondendo arte e vita si corre anche qualche rischio delle volte. In particolare dal punto di vista stilistico, mi raccontavi prima in un fuori onda o prima della trasmissione che avete usato diversi formati di ripresa, giusto? Sì, perché è un progetto che è partito nel 74, quando ancora non esisteva il digitale. Nel 74, nel 62 per la precisione, ecco. Che è la data di fabbricazione della piccola cinepresa 16 mm che è arrivata fino al Brasile, ma perché per una questione oltre che pittorica e estetica, anche per una questione di comodità, questa piccola cinepresa funziona con funziona con una carica a molla, per cui non c'era bisogno di corrente elettrica, non aveva bisogno di computer dove scaricare le schede, e per cui molti contributi sono stati girati in pellicola. Quindi, così paradossalmente, come era più leggero in quella forma di ripresa in viaggio che il digitale, più pratico. Così come sono state usate anche molte cassette mini DV, il famoso videotape. Qualcosa è stato girato poi ovviamente anche in digitale. Quindi abbiamo proprio l'antesignano dell'analogico, quella forma intermedia di analogico digitalizzabile e il digitale. Il poster sarà un daguerrotipo. Ma la GoPro ce l'avete? La GoPro l'abbiamo avuta in qualche frangente, ma non l'avete usata. Ma è stata smarrita, diciamo così. È stata smarrita sul set. Non siamo assolutamente contrari a quella che è la nuova tecnologia, anzi è molto pratica, è ecologica, perché la pellicola la pellicola è biologica, per cui fare gli sviluppi puzza, inquina. Inquina, infatti. Sì. Mentre una bella reflex fa comunque il suo mestiere, anche se lo fa in maniera completamente diversa da come lo fa la pellicola. Sarebbe da dedicare un'intera puntata del coxo a com'era bella. Insomma, mi sono sbilanciata, a me piaceva di più la pellicola, che devo dire. Dell'altro secolo, dell'altro millennio. Vecchia scuola. No, effettivamente, comunque siamo, anche se voi siete molto più giovani di me, siamo una generazione che ha avuto la fortuna di nascere con l'analogico e svilupparsi col digitale, insomma, non è una cosa che possono dire tutti. Allarme orario, ci vorrebbe un jingle. Sì, ce lo facciamo fare da Lolli, un bel jingle no, io sull'allarme orario. Ah, giusto, quello vorrei incontrare Lolli, è possibile. Sarà possibilissimo. Tra l'altro, visto che insomma, lui è anche attore e magari potrebbe nascere chissà. È vero, lui ha recitato in film importantissimi. Ce l'hai Zino lì? Ce l'ho qui che aspetta. Allora, salutiamo. Che il tempo è volato, non ho fatto in tempo. È volato via tutto. Hai ragione, faccio i 57. E la 154esima puntata di Coxo Spaziale, che era la nostra occasione di trascorrere tempo con Stefano Migliore. È già finita. È tornato libero, torna in libertà. Ma io torno, tornate anche voi, venite a trovarci a Paura in Palcoscenico, venite a trovarci al cinema, troviamoci dappertutto, troviamoci all'Odeon il 20 ottobre. E nell'occasione delle proiezioni all'Odeon ci sarete anche voi a fare gli autografi? Ci saremo noi per discutere animatamente con il pubblico, introduce la prima serata Giorgio Gosetti. Io vengo con Gas, va bene? E se può venire Gas è gradito ospite, ma non al ricevimento che daremo dopo al bar Rubik subito dopo la proiezione, perché so che il signor Van Sant, quando si tratta di rinfreschi, si comporta in maniera poco elegante. Un Rubik non gli basta, cioè ce ne vogliono tre di seguito. Rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. 23 orizzontale, prima o poi ci vanno tutti. 10 lettere. Non ho altre lettere, altri incroci. Non appoggi seduto qui sul cesso del mio monolocale romagnolo. Gongolo in sospensione e rifletto, come la mia immagine sullo specchio qui di fronte a me. Devo dire che alla fine non ho un bel aspetto, un po' clochard, un po' rimini, ma alla fine c'è sicuramente chi sta peggio di me, perché c'è sempre chi sta peggio di me, ma quello che mi fa veramente incazzare è che c'è comunque chi sta meglio di me, come quel pittore sfigurativo di nome Pasquini. Pittori, quadri, arte. Lo dice anche il proverbio, impara l'arte e mettila da parte, che tanto non servirà a rendere i tuoi figli belli, più felici, più indipendenti. Ora che ci penso, non ho mai avuto una vera e propria dipendenza. Questa cosa non va bene. Forse un periodo ho flirtato seriamente col pastisse, se ben ricordo, ma in fin dei conti non potevamo andare avanti. Era tutto un fiorire di legacci, abbracci, sabbie mobili, gabbie immobili, rabbie ignobili, falsi gemiti e letti apolidi. Poi finalmente un peto, intenso e breve come il nome di un cinese, mi riporta alla domanda iniziale. 23 orizzontale, prima o poi ci vanno tutti, 10 lettere. Vaffanculo! Vi lascio adesso al momento della menzione di Coxo. Ciao! I'm soaking up the sun, chilling out with a glass of wine, or gliding down a slope of freshly fallen snow. Ebbene sì, questo giro la mia gaffa è stata anche da mixer, mi sono superata. Ma no, sei sempre meravigliosamente bravissimissima. È che ti sei emozionata, perché qua abbiamo, come al solito, uno Stefano Migliore. Ma sì, che anche migliore. Mi emozionavo ad essere puntuale quando ce l'avevo dopo di me, adesso che ce l'ho avuto in trasmissione, chissà che figuraccio che ho fatto. Veramente siete eccessivi, siete bellissimi. E io questo lo ribadisco e lo dirò fino alla fine dei giorni. Come cineasta fai cagare, però come mica. Vabbè, non hai ancora visto un mio film, come fai a dirlo? Scusa. Hai ragione. Ma no, lui c'era in Brasile. Ma non hai brasiliero. Non lo puoi aver visto, perché ce l'ha nella saccoccia. Esatto. No, nella saccoccia che noi fotograferemo. Hai spiato il master. No, l'ho doppiato, adesso è già su. Ah, bravo. Su... Mi giri il link, per favore. Poi. Io non so neanche più Napster quali sono. Non, so. Esatto, non esiste più da 16 anni, tipo. Credo. Napster. Credo. Non so cosa si usa. Si usa. Per scaricare il Ma caricalo su YouTube direttamente, non c'è nessun problema. Molto bene, ringraziamo Stefano e lo vedremo all'Odeon. Su Archive. Che è più etico. È più etico. Ah, vabbè. Sì. Un breach of copyright di Archive, probabilmente. Poi girami il link. Lo chiuderà. Sì, come ti gireremo il link della puntata di stasera, che da domani sarà visibile su www.coxospaziale.blogspot.com. Anche se quello penso che lui sappia dove trovarlo. Io so tutto del coxo spaziale. Vorrei mettere lo stacchetto, ma ho chiuso già tutto. Vabbè, non va benissimo così. Fede. Ritorniamo al nastrone e chiudiamo questa fantasmagorica puntata. Ciao. Viva Ciao. Il coxo! Time slips away like a high-speed train. It really makes sense to enjoy your days. Time goes on, seasons change, but I don't care what's coming next. Time slips away like a high-speed train. It really makes sense to enjoy your days. Time goes on, seasons change, but I don't care what's coming next.